prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Sono ancora molti e positivi gli echi nel veneziano dell'iniziativa di cui avevamo parlato anche noi in questo spazio alcune settimane fa, che si è svolta appunto nel Ponte di Ognissanti, Prove di un mondo nuovo, 72 ore con le maniche in su. Ne abbiamo letto anche sulle pagine di Gente Veneta, un'iniziativa appunto che ha coinvolto i giovani, 3 giorni interi a disposizione per provare appunto a cambiare dal basso, con le proprie braccia, con le proprie capacità, il mondo. Ed è una delle tante iniziative promosse da Caritas Veneziana, altre ce ne saranno e stanno arrivando. La più vicina nel calendario è quella del Capodanno, la notte di Capodanno, da passare in un modo diverso, un'esperienza ad esempio raccontata da Fabio, che l'anno scorso dice il fatto che la serata dell'ultimo dell'anno avesse avuto un buon esito, ne ho avuto testimonianza nel pomeriggio del 1° gennaio, quando camminando per le strade di Venezia ho incontrato 2 ragazzi ospiti del centro Don Milani, che accoglie minori extracomunitari immigrati. È stato, dice Fabio, come incontrare 2 amici di vecchia data, e nonostante il freddo siamo rimasti per strada ancora a parlare a lungo, segno che si era instaurato quel rapporto di amicizia che aiuta questi ragazzi lontani dal loro paese a non sentirsi soli, ma parte di una comunità più grande di persone che vogliono bene al loro destino. E allora le possibilità ci sono appunto per mettersi a disposizione per questo Capodanno particolare, non solo al Don Milani, ma anche in tutte le altre realtà che segue la Caritas di Venezia. www.caritasveneziana.it è il sito ufficiale, la mail si può scrivere a info@caritasveneziana.it oppure telefonare 041 97 58 57. La sede di Mestre è in via Querini 19A. Le esperienze sono appunto coinvolgenti, certamente impegnative, perché chiaramente si tratta di uscire un po' dagli schemi. E poi un'altra opportunità ci sarà nei mesi successivi, che ovviamente per Venezia significa carnevale. Sarà un altro appuntamento molto, molto importante. Dicevamo, la Casa Don Milani è solamente una delle strutture che è seguita dalla Caritas Veneziana. Ricordiamo ad esempio anche l'esperienza Betania, comunità nata nel 1980, che promuove occasioni di sostegno ai poveri attraverso gruppi di volontari che provengono dalle parrocchie del patriarcato, per ridare dignità alle persone che vi arrivano, gesti concreti di amicizia fraterna per recuperare integralmente le persone. La comunità di Betania si trova a Venezia, centro storico, a Cannaregio 2601. Svolge servizio di accoglienza, di ristorazione serale con 60 posti, distribuzione di vestiario e lavanderia, uso delle docce, servizio medico a richiesto e dormitorio di emergenza per donne straniere. È aperta tutti i giorni dalle 18, con tantissime presenze, segno appunto che di queste strutture evidentemente c'è bisogno, e lavorano prevalentemente nel silenzio queste attività. Un'altra che vi cito è la Casa di Accoglienza Comunità di Betlemme, che offre ospitalità notturna, quindi pernottamento, colazione, doccia, ricambio, biancheria per circa 15 giorni a persone senza dimora, maschi, bisognosi e senza legami familiari, purché autosufficienti e in genere di nazionalità italiana. Qui ci sono 24 posti letto, siamo sempre a Venezia, ma nel sestiere di Santa Croce, numero 558, la struttura è aperta tutti i giorni dalle 19.45. L'anno scorso, nel 2011, ha fatto registrare più di 8.000 presenze, e voi direte nel ricco nord-est, nella bella Venezia, ci sono evidentemente persone anche così, questa è la realtà appunto che viene raccontata tutti i giorni dalla Caritas veneziana. Altra struttura, sempre a Santa Croce, lì vicino, la Casa Beato Giovanni XXIII, che offre accoglienza alle donne invece provate dall'esperienza del carcere, e a Venezia c'è un carcere femminile. Il servizio è rivolto alle donne che sono in permesso premio, in licenza e senza altri punti di riferimento, oppure in semilibertà, oppure quelle che sono a fine pena e in attesa di una sistemazione. È anche un luogo più accogliente per i bambini, dove appunto i familiari detenuti si possono incontrare. Può ospitare 7 persone adulte e 4 bambini. È aperta 24 ore su 24 tutti i giorni, e l'anno scorso ha fatto registrare 233 presenze, si è rivolta ad 82 persone. Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Noi diamo voce a queste realtà non tanto e non solo per dire che bravi che sono questi della Caritas di Venezia che fanno tutte queste cose, ma lo facciamo per come testimonianza del fatto che ci sono e che evidentemente c'è bisogno di queste strutture, di queste attività. Evidentemente c'è bisogno di sostenerle, magari anche con la propria presenza, con la propria disponibilità. Vediamo alcuni appuntamenti in questi giorni promossi dalla Caritas diocesana di Venezia, calendario che è già iniziato col mese di settembre, e in questa settimana non vale evidentemente per chi ci ascolta il sabato, ma giovedì 22 per chi ci ascolta prima c'è l'incontro di preghiera per il vicariato di Caorle nella chiesa di San Giovanni Battista a Cacorniani in via Teson dalle 18.30 alle 19.30. Nei giorni successivi, sabato 1 dicembre, nella sede Caritas in via Quirinia Mestre, il primo convenire Caritas sulla spiritualità d'avvento, che appunto inizia proprio con sabato 1 di dicembre, appuntamento dalle 16 alle 18.30, e poi sempre con sabato 1 dicembre, quando inizierà appunto il periodo di avvento, in tutte le parrocchie del patriarcato inizierà la campagna Avvento Natale di Fraternità, di cui poi vi daremo dettagli nell'appuntamento successivo fra 3 settimane con la Caritas veneziana. Lunedì 3 dicembre, per la serie Appuntamenti con Gesù, i testimoni della fede, nella chiesa del Santo Nome di Gesù, Fondamenta Santa Chiara a Venezia, alle 18.30, l'appuntamento fino alle 19.45. Ancora prima di Natale, domenica 16 dicembre alle 15.30, l'incontro della Caritas con i bambini e le loro famiglie in cattedrale Basilica di San Marco. E quella settimana, la settimana appunto tra il 17 e il 22, ci sarà anche una Santa Messa della Carità con il Patriarca Monsignor Francesco Moraglia, su questo poi saremo più precisi appunto nel prossimo appuntamento. E poi il Capodanno di gratuità, che già ricordavamo prima, per la notte fra il 31 dicembre 2012 e il 1 gennaio 2013. Segniamo già in agenda per lunedì 7 gennaio, ancora alla Chiesa del Santo Nome di Gesù a Venezia, Fondamenta Santa Chiara, un nuovo ciclo degli appuntamenti con Gesù, i testimoni della fede. L'orario di inizio è sempre alle 18.30, e poi proseguiranno anche gli incontri di preghiera vicariato per vicariato. Nel periodo successivo, quando poi inizia la Quaresima, ci sarà il secondo convenire Caritas, sabato 23 febbraio, il primo all'inizio proprio della Quaresima, questa volta non a Mestre ma nella Casa di Spiritualità Santa Maria Assunta a Cavallino. Tutti gli altri dettagli, informazioni anche sulle esperienze estive in programma appunto tra giugno e luglio 2013, bisogna prendersi per tempo, li potete trovare sul sito www.caritasveneziana.it. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.